le mie ali già si accorgono qui, ma mi resta da leggere, ma la voglio uscire come sogno e mi ha messo a piacere. Stavo pensando a un paolo, quale è stato tu che l'ha con te, a volta sono quella lì.